ancora, diciamo, un maggior benessere economico coincide ad esempio con l'adozione di uno stile di vita e di uno stile di consumo più occidentale e potenzialmente anche meno sano. Il consumo consapevole, il consumo più responsabile è associato a preoccupazioni, diciamo, si fa perché è più sano, perché è più buono per noi. La nostra sfida è far capire che è più buono anche per tutti noi e per tutto il pianeta. La solidarietà sul tema della fame, infatti la campagna si chiama Per un futuro senza fame, ha due principali linee, quella della solidarietà e del sostenere gli 8 progetti che appoggiano piccoli produttori contadini, e dall'altro lato però chiama in causa anche noi come cittadini responsabili e soprattutto come consumatori responsabili, perché il tema della fame, è bene chiarirlo, non è dovuto alla mancanza di cibo. Nel mondo si produce il cibo sufficiente potenzialmente per sanare 7 miliardi di abitanti. Il problema è che il sistema alimentare è pieno di storture, di iniquità, di ingiustizia e bisogna aggiustarlo. Noi abbiamo 925 milioni, secondo i dati della FAO, di persone a rischio di insicurezza alimentare, o meglio di fame, e al tempo stesso nel mondo vengono sprecati 1.300.000.000 di tonnellate di cibo ogni anno, per cui la situazione è questa: una persona su 7 nel mondo soffre la fame e più di un terzo del cibo prodotto viene buttato via. Di nuovo in studio con il meglio di essere e avere, non fate come gli italiani, andate a vivere da soli. Questo è il messaggio di fondo di una pubblicità norvegese che ha fatto molto discutere, uno spot parodia sugli italiani mammoni sul quale siamo voluti tornare per parlare di pubblicità e luoghi comuni. Amo vivere con mia mamma. Mamma! Det kan bli farlig lett for unge menn å flytte hjemmefra, mener signora Cassini. Mio figlio è troppo importante. Come fa a farsi da mangiare? Perché devo fare la fila per ogni cosa quando ho la mamma che mi dà tutto? Man frykter nå at Obos kan gjøre det for lett å flytte hjemmefra. Finché non troviamo una brava moglie, tu resti con mamma. Tira fuori le mani. Ha fatto molto discutere in rete, ma non solo, questo spot di un'agenzia immobiliare norvegese. Se non avete avuto occasione di vederlo, lo trovate anche sulla nostra pagina Facebook. Spot che descrive e deride i maschi italiani come irriducibili mammoni, viziati e immaturi. Una pubblicità che utilizza tutti i luoghi comuni sui bamboccioni e che invita in pratica a non prendere esempio dagli italiani comprando o affittando casa con Obos. Appunto questo il messaggio promozionale. Non è la prima volta che gli italiani sono il bersaglio delle parodie, degli spot stranieri, ma quanto funzionano i luoghi comuni in pubblicità e come è più efficace usarli? Ne abbiamo voluto parlare con un esperto, Agostino Toscana, direttore creativo esecutivo di Saatchi & Saatchi, tra le più importanti agenzie pubblicitarie al mondo. Ma niente. Di sorprendente, cioè è un classico della pubblicità di giocare con gli stereotipi, no? E purtroppo, così come gli scozzesi vengono dipinti come avari o i cinesi come curiosi, noi siamo sempre un po' famosi per queste cose, c'è pure di peggio, siamo famosi anche per queste robe un po' tipo come mafiosi a volte, no? Dipinti. Questa dei mammoni è già un po' più benevola, no? Insomma, rispetto a... molto spesso veniamo dipinti come malviventi. Forza! Famiglia, it's the Italian way, it's so sad to live alone, so much better to be a mammone. Forza famiglia, we don't like the Obos. Forza famiglia, it's the Italian way. Probabilmente in questo momento qui il fatto di essere dei bamboccioni, come ci definì un governante qualche tempo fa, no? Gente che non se ne va da casa, abituata a farsi servire dai genitori, non ha intraprendenza, non vuole uscire e crescere, fa più clamore in questo momento storico che non l'essere i mafiosetti o i corrotti o questo, no? Perché in un momento in cui i giovani non lavorano e ci sono tutti questi problemi di sia di scuola che di occupazione per i ragazzi, mi viene facile ricondurlo alla Fornero che dice che i ragazzi sono chiusi, no? È un discorso che gira nell'aria, ovviamente viene preso e usato dalla pubblicità. La pubblicità è sempre pronta a prendere lo stereotipo perché è radicato nelle menti delle persone ed è facile da evocare in 30 secondi in TV. Proprio da questo punto di vista, dal punto di vista della comunicazione, quanto vale l'uso dei luoghi comuni, lo stereotipo in pubblicità? Ma vale molto, perché è come dicevo prima, è un codice, ed è un codice che è già radicato nelle menti di chi guarda, per cui basta evocarlo e non serve costruire una nuova storia, non serve stabilire quello che in cinema viene detto descrizione del personaggio, carattere del personaggio. Si evoca uno stereotipo ed è già lì nella nostra testa, presente da quando siamo piccoli, e basta rievocarlo. Insomma, qui facilita molto la comunicazione pubblicitaria, che in genere è sempre simbolica, no? E di suo è riassuntiva, non ha né i tempi né la possibilità di stare troppo a spiegare o a costruire, no? Hai bisogno di essere immediatamente comprensibile, quindi fai leva su dei codici che già ci sono. La pubblicità, io lo sostengo sempre, non è mai avanguardia, è sempre retroguardia, cioè arriva quando già un codice comunicativo è stato ben assorbito da tutti e lo usa. A questo punto vorrei chiudere con una riflessione che sta più dibattuta: l'Italia avrebbe bisogno di uno spot anti luoghi comuni che esalti le sue eccellenze. Ma guardi, più che aver bisogno di uno spot anti luoghi comuni, forse dovrebbe cominciare a sfatarli veramente, questi luoghi comuni. Ottimo proposito questo per il 2013. Ora cambiamo argomento, parliamo del nuovo regolamento europeo sulle diciture salutistiche dei prodotti e degli integratori alimentari, i cosiddetti health claims, espressioni ormai familiari a molti consumatori, quali rinforza le difese, favorisce la digestione, riduce il colesterolo, espressioni che l'Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare ha vagliato una per una, classificandole in base alle sostanze contenute negli alimenti e alla loro effettiva efficacia. Ebbene, dal 14 dicembre scorso solo i 222 slogan accettati dall'EFSA potranno essere stampati sulle etichette dei cibi toccasana, e l'industria alimentare si è dovuta adeguare. La borsa della spesa. Previene l'erosione dentale, aiuta la crescita, rinforza le difese immunitarie, serve a mantenere il tono di calcio nelle ossa, favorisce la concentrazione, aiuta a regolare i ritmi del sonno, contiene il livello di colesterolo, rallenta l'invecchiamento delle cellule. Erano alcuni dei claim, cioè degli slogan usati per molti prodotti e integratori alimentari, dall'acqua allo yogurt, dai biscotti alle gomme da masticare, dalle barrette ai succhi di frutta. Sono i cosiddetti cibi funzionali, gli alimenti che in virtù di alcuni ingredienti promettono benefici per la salute. Un mercato che non conosce crisi, basti pensare che nell'ultimo anno gli italiani hanno acquistato più di 139 milioni di confezioni di integratori, il 4% in più dell'anno prima. Sulle promesse stampate sulle etichette di questi prodotti ha voluto vederci chiaro l'EFSA, l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, che ha messo a punto un nuovo regolamento sulle diciture salutistiche, approvato dalla Commissione Europea. Il regolamento in pratica riordina tutte le espressioni che i produttori possono usare in base alle evidenze dimostrate da prove scientifiche. Tutte le indicazioni che non compaiono nella lista dei 222 health claims dovranno essere tolte dal mercato. Ne abbiamo parlato con Silvia Valtuegna Martinez, esperto scientifico dell'unità nutrizione dell'EFSA. L'EFSA ha classificato i più di 4.700 claims o indicazioni nutrizionali o sulla salute ricevuti fondamentalmente in base al principio attivo, come le vitamine, minerali, le fibre o gli acidi grassi. Però in altri casi casi quando l'effetto benefico di questi slogan non era chiaro o non poteva essere valutato, li ha recuperati per tipologia, spiegando in modo molto trasparente perché non potevano essere valutati. I pareri propedeutici precedenti avevano portato a una bocciatura in massa di quello che c'era sul mercato, quindi questo nuovo regolamento cambierà molte cose. Beh, innanzitutto, guardandolo dall'altro punto di vista, possiamo anche dire che circa il 20% di questi slogan valutati hanno ricevuto un parere positivo. Questi effettivamente riguardano soprattutto i principi attivi con effetti sulla salute che sono noti già da tempo, come per esempio, come ho detto prima, le vitamine, minerali, qualche fibra e gli acidi grassi, ma anche, devo dire, su principi attivi meno noti, come molecole del pomodoro o del cacao. In ogni caso, nella maggioranza dei casi, le valutazioni negative sono state dovute spesso alla poca chiarezza dei claim richiesti o alla scarsità dei dati scientifici forniti. Ci può fare qualche esempio? Farei un esempio di un claim che è veramente su molti prodotti sul mercato: gli acidi grassi omega 3 e il loro effetto sulla salute del cuore. Effettivamente questo è un tipo di slogan che ha ricevuto un parere positivo e che è stato autorizzato dalla Commissione Europea. Un esempio dei claim negativi che sono anche abbastanza nei mezzi di comunicazione questi giorni sono i probiotici o gli antiossidanti. Questi principi attivi in generale hanno ricevuto pareri negativi perché in alcuni casi erano stati attribuiti loro dei claims poco chiari o molto difficili da valutare da un punto di vista scientifico. Ma l'industria alimentare è pronta a recepire queste nuove regole? Ha già cambiato le etichette sui prodotti? Come? Lo abbiamo chiesto a Daniele Rossi, direttore generale di Federalimentare, la federazione che rappresenta l'industria alimentare in Italia, industria che, lo ricordiamo, è la seconda industria manifatturiera del paese dopo quella metalmeccanica. È una rivoluzione, una vera rivoluzione. Il meccanismo autorizzativo della Commissione europea e dell'autorità europea, quella di Parma, ci induce a verificare continuativamente la scientificità delle nostre affermazioni, l'incidenza reale della composizione del prodotto, dei diversi ingredienti e così via, anche gli effetti salutistici e nutrizionali dei nostri prodotti alimentari. Quindi per noi è una vera rivoluzione. Come impatterà sul mercato questa riforma? È una grande opportunità per il nostro settore, per l'industria alimentare italiana, di individuare, diciamo, un segmento della nostra produzione che sia indirizzato a quelle persone che hanno maggiore interesse alla dimensione salutistica e nutrizionale dei prodotti alimentari. Quale deve pensare che l'industria alimentare italiana è famosa anche per il gusto, per la qualità, per il piacere del mangiare, e tutto questo rimarrà comunque fortemente insediato nella memoria gastronomica del paese e nella storia culturale, per cui non credo che ci saranno grandi rivoluzioni sul mercato, però è una grande opportunità perché chi ha effettivamente fatto un po' di ricerca, sviluppato nuovi prodotti, innovato, può valorizzare di più con questi claim i contenuti nutrizionali e salutistici dei propri prodotti. Alcuni claim che tendevano ad essere un po' approssimativi dovranno essere completamente rivisti, se non addirittura esclusi. Finisce qui l'antologia di Essere e Avere. Da domenica prossima torniamo con i nuovi temi dedicati al mondo dei consumi. Continueremo a raccontarvi tutto quello che c'è da sapere sulle nuove tendenze della pubblicità, del marketing, della spesa di tutti i giorni, della moda, del design e dei nuovi media. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.